Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Due numeri per cominciare: meno 70% di energia e meno 44% di consumo d'acqua. Stiamo parlando di una nuova tecnologia per tingere la lana messa a punto all'Environment Park di Torino e più precisamente dal laboratorio dei plasmi. Ci spiega tutto Davide Damosso, che è direttore innovazione e sviluppo dell'Environment Park. Buonasera Damosso. Buonasera, grazie. Dunque, voi in pratica pretrattate i tessuti di lana prima della tintura, affinché proprio il processo di tintura vero e proprio, quello diciamo tradizionale, richieda meno acqua, meno energia. Ci sono anche altri vantaggi. Ecco, però prima di spiegarci come funziona, ci ricordi rapidamente che cosa sono questi plasmi? Allora sì, noi lavoriamo con questa tecnologia dei plasmi che sostanzialmente sono come uno stato della materia. Un gas viene ionizzato attraverso un campo elettrico. Gli si strappano gli elettroni. Esattamente, questi elettroni restano come sospesi in questa zona di campo elettrico, formando delle specie cariche ad alta energia, che hanno la possibilità quindi di interagire con una superficie provocandone delle modifiche. In pratica diciamo che questi atomi di gas, che di per sé potrebbero starsene per i fatti propri, quando sono ionizzati diventano molto reattivi. Molto reattivi, no? E possono essere utilizzati in modo intelligente, in modo guidato, per poter fargli fare un lavoro che serve appunto a pretrattare una superficie, come in questo caso. Ecco, e lì che cosa succede? Allora. In questo caso l'obiettivo era quello di andare a migliorare dal punto di vista energetico, ambientale e quindi economico il processo di tintura, portandolo sulla lana, portandola quindi a temperature più basse. Allora che cosa facciamo? Ecco, temperature non le abbiamo dette, si passa dai 98 gradi tipici di questo processo di tintura a quanto? A 20 gradi, temperatura ambiente sostanzialmente. La lana, come funziona questo processo? La lana è una proteina che sostanzialmente si può immaginare come un filamento che viene in qualche modo inguainato in acidi grassi. Cosa succede? Che sono sostanzialmente idrofobici, quindi respingono l'acqua e poiché il colorante è sciolto in acqua, bisogna, per far facilitare l'ingresso del colorante all'interno della proteina, è opportuno scavare dei canali all'interno di questa guaina protettiva di acidi grassi. Questo lavoro di perforazione è fatto attraverso il plasma. Perfetto, quindi ci saranno degli atomi che arrivano veloci e fanno un buco in questa guaina e lì si attacca la tintura. Macroscopicamente passa nel plasma prima di entrare nel bagno di tintura. Arriva al bagno di tintura pretrattata, quindi diciamo attivata, no? Resa più idrofila, e questo facilita l'ingresso del colorante all'interno della fibra sostanzialmente. Quindi serve meno acqua, serve meno tintura, il processo è più veloce, che è un fatto molto importante. Il processo è decisamente più veloce, passiamo da trattare 1800 metri per bagno a trattarne 5000 metri per bagno. No? Tra l'altro questa è una tecnologia che si usava su altri tessuti, ma nessuno era mai riuscito a utilizzarlo sulla lana, e voi state già lavorando con delle aziende, cioè non siamo a livello di idea campata per aria, c'è qualcosa di molto solido. Mi sembra. Sì, assolutamente. Questa è una tecnologia che nel settore tessile viene utilizzata. L'applicazione specifica non era così semplice, proprio perché non si riusciva a dare una stabilità poi alla tintura realizzata con questa tecnologia. Lei mi ha anche raccontato che i primi tentativi sono stati disastrosi, cioè buttavate dentro la lana, tiravate fuori. Le prove, una lana che era proprio assolutamente inaccettabile. Dopodiché, lavorando molto con queste aziende, e mi piace proprio citarle perché sono quelle con cui abbiamo sviluppato tutto, quindi l'anificio Tessil Grosso e la tintoria Tonella della zona del Biellese, e poi l'azienda Grimp, che è l'azienda che in qualche modo lavora proprio sulla macchina del plasma. Abbiamo fatto moltissime prove, stiamo parlando di oltre 1200 prove sperimentali, fino ad arrivare alla produzione di piccole serie di tipo prototipale, ma comunque sulla linea definitiva. Sulla linea definitiva di produzione, cioè in questo momento queste aziende stanno usando per la produzione questi apparati. Loro hanno fatto campionature di produzione, sottoposte ai clienti, verificate, assolutamente testate dal punto di vista della qualità. Ci sono altri materiali sui quali si può immaginare di fare la stessa operazione, cioè di attivare le superfici per renderle più ricettive rispetto a una tintura o altri trattamenti di questo genere? Ma diciamo proprio questo tipo di tecnologia noi lo stiamo testando sempre nell'ambito tessile con il cotone. In questo caso non è tanto una questione di risparmi energetici o di materiale, ma è di ridurre moltissimo i pretrattamenti che fanno utilizzo poi di sostanze chimiche, aggressive e chimiche, che comunque hanno un impatto ambientale sul processo e anche sui costi dal punto di vista. Va bene, grazie Davide D'Amosso, ci salutiamo, ma solo per diciamo risentirci domani, perché parliamo di tutte le altre cose, sono tantissime, che si possono fare coi plasmi per rendere più intelligenti le superfici. Grazie molte. A domani.